Si può fare. L'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, un'altra settimana che si apre insieme a me, Alessio Maurizio, a Carlo Gabardini, il nostro stagista opinionista. Buonasera. Quest'estate abbiamo deciso che avresti fatto uno stage da opinionista qua in questo spazio, e poi com'è andata? È andata bene? Beh, per il momento io ne sono felicissimo, oggi sono molto molto triste perché è l'ultima settimana, ma non creiamo la giornata dei rimpianti, no, perché è anche venerdì, il giorno giusto? In cui finisce la storia tra Monica Bellucci e Vincent Cassel. Esatto. E allora evitiamo di piangerci addosso. Dice peggio quella, no, piuttosto. Poi gli ascoltatori, bisogna dirlo, torneranno Giuseppe Cruciani, David Parenzo, la Ovvio Zanzara, sì. Da lunedì prossimo. Noi in questo spazio, con questa formula, questa estate vi abbiamo tenuto compagnia. L'attualità 800 24 00 24, le good news con cui ci lasciamo prima di ogni pausa, e la bella storia che vi raccontiamo, insomma, alle 20:15. Cerchiamo di ragionare un po' anche su quello che si riesce a fare, visto che parliamo sempre di quello che non si riesce a fare in Italia. Qualche volta si può fare. Oh, benissimo, cominciamo adesso però con i titoli di Sky TG24. Precari della pubblica amministrazione in corso il Consiglio dei Ministri in mattinata, vertice sull'IMU con Letta, Alfano e Saccomanni. Berlusconi interviene sullo scontro interno al PDL e dice basta polemiche. Piazza Affari perde oltre il 2%, meno 6 per Mediaset. Siria, ispettori al lavoro sul sito della strage con i gas letali, gli Stati Uniti smentiscono le voci di un intervento entro pochi giorni. Ad Avellino un ex vigilante uccide un vicino, ferisce gravemente la figlia incinta, un testimone racconta, voleva sparare a chiunque. Il dramma all'ospedale di Grosseto, trasfusione con il sangue di un altro, un uomo di 76 anni muore, disposta all'autopsia. Tutti a piedi ai fori imperiali al rientro dalle ferie, romani perplessi e turisti entusiasti, in marino, nessuna marcia indietro. Serie A, stasera Fiorentina Catania chiude la prima giornata, intanto Higuain scivola in barca a Capri, 10 punti di sutura per lui. Monica Bellucci, Vincent Cassel, ultimo ciak sulla storia d'amore, la diva italiana e l'attore francese si separano dopo 14 anni. Chissà se va, chissà se va, se va. Ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va, che va. E se va, se va, se va, tutto cambierà. Forza ragazzi, spazzola, e chi mi fermerà? Chissà se va, chissà. Io spero che il PDL guardi agli interessi del paese, perché non è qua un duello tra PD e PDL. C'è un'Italia in grandissima difficoltà che aspetta risposte. Ripeto, trovo davvero immorale che si pensi a un riccone che vive in un mega appartamento e non si pensi a un esodato, a un disoccupato. Non è una sfida tra PD e PDL, non è un duello, è un atteggiamento serio di chi vuole mettere al centro i problemi del paese. Se il PDL di fronte a un disoccupato in difficoltà, di fronte a un esodato, di fronte a un commerciante che si vede l'aumento dell'IVA e il calo del fatturato, sì, di fronte a una famiglia in difficoltà, continua a privilegiare i super ricchi, se ne assumerà le responsabilità. Seguitemi un po'. Aspettiamo la proposta del governo. Fassina è viceministro dell'economia. Mi pare che Fassina non sia ancora il ministro dell'economia. No, il viceministro, però insomma sarebbe grave se fosse smentito. Devo dire, no? Io rispetto le gerarchie, aspetto la proposta del ministro Saccomanni. Chissà se va. La disputa, avete sentito, Fassina Brunetta sull'IMU, e insomma staremo a vedere, non lo so come andrà a finire. Tra qualche giorno dovrebbe arrivare la soluzione, era stata annunciata entro la fine d'agosto, insomma mancano pochi giorni, prima o poi scopriremo. Sembra che si stia spostando su questo un po' la disfida tra il PD e il PDL. Chissà se va, anche oggi la scelta musicale della redazione, Riccardo Polo e Laura Marchesi, è musicalmente perfetta, è formidabile, no? E Brunetta comunque continua a twittare, sì, anche sull'IMU, ha appena twittato: IMU case lusso già la pagano e continueranno a pagarla. Attenzione, questa è una dichiarazione importante di Brunetta, perché case di lusso, però dice se... già la pagano e continueranno a pagarla, cioè perché non c'è una categoria toglierla di case di lusso che sono sempre state escluse da ogni intervento di abolizione, diciamo, della tassazione. Però credo che al PD questo non basterebbe, almeno a Fassina. Vabbè, però c'è sempre la questione del voto in giunta, perché non ci distraiamo. Zoggia, PD. Il Partito Democratico ritiene che la legge sia uguale per tutti. La Costituzione da questo punto di vista è chiarissima, per cui non c'è nessun cittadino che sta sopra la legge. Ci auguriamo che il Popolo delle Libertà riesca a scindere le questioni giudiziarie di Berlusconi dalle questioni del governo e dia la forza al governo per continuare a dare risposte che i cittadini italiani si attendono. C'è una novità. E noi non chiediamo di salvare Berlusconi, perché Berlusconi è stato condannato in via definitiva. Quindi nessuno può togliere questa condanna, giusto o sbagliato che uno la giudichi, questo è un altro discorso, ma il voto sulla decadenza è un altro aspetto. Oh, c'è anche questa intervista, anzi quest'audio di Massimo D'Alema, che qualche giorno fa in un'intervista, che poi c'era stata una smentita da parte della sua portavoce, aveva detto, vi ricordate, Letta è un leader temporaneo, il nostro candidato sarà Renzi, ci saranno le primarie, poi D'Alema ha detto ma non è una novità il fatto che io appoggi Renzi, però sentiamo. E poi se non ci fossero possibilità ci saranno le elezioni, quindi le primarie e le elezioni. E in caso di primarie la mia opinione è che il candidato più probabile sarebbe Renzi. Eccoci qua, se volete interagire in diretta con noi, per esempio su Twitter l'account del programma è chiocciola, si può fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi, poi c'è anche quello di Carlo Gabardini. Che è chiocciola Carlo Gabardini. Il quale però adesso si tace perché le regole di ingaggio non ti consentono l'intervista con l'ospite. I politici. Ci ha raggiunto Maria Stella Gelmini, buonasera. Buonasera a voi. Allora, onorevole Gelmini, non possiamo non parlare anche noi un po' di falchi e colombe, perché anche lei con una dichiarazione ieri ha invitato a non esagerare con le dichiarazioni da parte anche dei colleghi suoi di partito. C'è stata un po' di esuberanza verbale in questi ultimi giorni? Ma forse qualche errore è stato commesso, certo. Voi giornalisti vi siete particolarmente appassionati, sì, quasi sempre, quasi. Quindi vi siete molto appassionati ad una rappresentazione ornitologica del PDL, qualche errore l'abbiamo fatto anche noi, ma nella sostanza ad Arcore l'altro giorno, sì. Ma devo dire in queste settimane difficili io vedo un partito coeso, un partito unito, compatto nella difesa del proprio leader Silvio Berlusconi, ma anche nel perseguire l'interesse del paese, e le due cose non sono per niente in contraddizione, perché la difesa di Berlusconi non è la difesa solo personale, è la difesa della democrazia, è la difesa e della rappresentanza di più di 9 milioni di elettori da un lato, e dall'altro l'interesse del paese sta nell'intuizione che Berlusconi ha avuto prima degli altri, prima del Partito Democratico, nel volere un governo di larghe intese. Quindi da parte del PDL c'è stato da sempre grande senso di responsabilità, e per questo non accettiamo lezioni da parte di chi prima ha fatto perdere al paese 60 giorni per individuare la strada giusta, e devo dire quando Berlusconi appunto da subito aveva inteso che l'alleanza con i 5 Stelle non era possibile, quindi serviva una pacificazione, serviva un accordo PDL-PD, e così è stato. Sì, senta, però non è che possiamo scamparla così velocemente la polemica ornitologica, come la dice lei, perché insomma qualcos'altro ci deve dire. Per esempio Brunetta dice che lui è un falco buono, lei cos'è, una colomba agguerrita invece? Ma guarda, io vorrei uscire da questo dibattito che mi pare, come dire, sì, divertente, però... Ma non c'è stata davvero nessuna tensione, mai nessuna divisione tra di voi, perché le parole della Santanchè all'uscita del vertice l'altro giorno sembravano diverse, sembrava che lei stessa ha fatto dei nomi, adesso me li faccia ridire. Molte volte è stato dipinto il PDL come un partito monarchico in cui non c'era dibattito, non c'era confronto, è chiaro che invece il confronto c'è, ci sono posizioni diverse, ma non ci sono divisioni, non ci sono conflittualità. anche l'incontro di Arcore, che è stato particolarmente lungo, si è svolto all'insegna dell'unità e della volontà di fare squadra e di trovare delle soluzioni. Per esempio si è discusso del tema dell'IMU che prima avete toccato, delle priorità del governo, e poi certamente il punto della decadenza resta, e noi ci auguriamo che non chiediamo un trattamento di favore per Silvio Berlusconi, chiediamo la difesa dello Stato di diritto, la difesa dei principi costituzionali, e che la giunta per le elezioni non si trasformi in un plotone per eliminare l'avversario politico, ma sia un organo terzo, un organo che prende atto e che approfondisce con i dovuti modi delle questioni come... che non ha posto la Gelmini, Alfano, la Santanchè, ma hanno posto illustri costituzionalisti che non credo siano tacciabili di vicinanza a Berlusconi o al PDL. Alla fine poi sarà anche un voto politico, come naturale che sia, il Parlamento, ed è questo spazio che lei chiede per un approfondimento, è quello che per esempio apre oggi Luciano Violante con un'intervista. The good news! Sei lavoratori di una cooperativa che si occupa del sito archeologico di Posillipo, alla fine del loro turno di lavoro si dedicano a spazzare la strada vicina e a ridipingere le pareti imbrattate. Lo fanno a gratis, per amore della città e dei turisti. Samaritani del dopolavoro. Senta, onorevole Gelmini, di nuovo in nostra compagnia, mi consenta però di tornare un attimo sul... perché lei ha detto, ci avete detto tante volte che eravamo un partito monolitico, qualcuno usa l'espressione partito di plastica, Bondi ha detto, avete visto, non siamo un partito di plastica, si discute, anche lei ha detto al vertice ad Arcore, posizione coesa, ma si è discusso. Ma quando la Santanchè dice il governo Letta è già deciso cadrà, esprime la posizione di tutto il partito o no? Guardi, certamente noi siamo stati, lo ribadisco, tra coloro che il presidente Berlusconi in primis hanno fortemente voluto il governo Letta e continuiamo a sostenerlo. È chiaro che la Corte di Cassazione, condannando Berlusconi dentro un processo che ha più di un'ora e ha più di un dubbio di legittimità, è chiaro che ha complicato e di molto il percorso. Noi sappiamo rimanere con i nervi saldi e tenere distinte la questione del governo rispetto a quella di Berlusconi, ma non possiamo nascondere che la sentenza ha complicato particolarmente il percorso e il dibattito all'interno della giunta per le elezioni è un altro punto delicato, e quindi se il PD in quell'organo che è appunto la giunta per le elezioni agirà non sulla base del diritto, sulla base della difesa dei principi costituzionali, ma sulla base della solita volontà, del desiderio di eliminare l'avversario politico usando la giunta come un plotone di esecuzione, è chiaro che si creano dei problemi. Noi ci auguriamo che prevalga in tutti i sensi. Allora però mi scusi, però ha ragione la Santanchè, perché lei dice il PD non ci darà questa apertura di discussione, perché Epifani, nonostante le parole di Violante, che però non è il segretario del PD, Epifani ha detto sappiamo già come voteremo, quindi se questa è la condizione, di fatto ha ragione la Santanchè, il governo Letta cadrà. Ma guardi, lo scopriremo vivendo, nel senso che oggi credo che ognuno di noi, ogni parlamentare del PDL, del PD di Scelta Civica, è chiamato ad un'assunzione di responsabilità per i comportamenti che terrà nei confronti degli elettori. E quindi, lo scenario è aperto, nulla può essere escluso. Quello che io mi auguro e il lavoro che si sta facendo è quello di evitare che prevalgano gli estremismi e che nonostante ci sia di mezzo Berlusconi, proprio perché la legge è uguale per tutti, di questo principio se ne tenga conto comunque. E noi, ripeto, non chiediamo trattamenti di favore, non chiediamo privilegi, chiediamo che venga analizzato quel groviglio di norme che incidono sulla giurisdizione italiana ma anche sulla giurisdizione europea, e quindi prima di votare la decadenza di un parlamentare, di un senatore in questo caso, ma anche del leader che ha conquistato milioni di voti e di elettori, ecco, credo che un giusto approfondimento, una giusta considerazione ci debba essere. E come sempre io ho grande fiducia nel presidente Napolitano, che credo dentro i confini dei compiti, del ruolo che gli affida la Costituzione, certamente osserva e segue questo momento delicato della vita del paese con la consueta attenzione e la consueta abnegazione. Quindi, senta, sì, chiaro, richiamo a Napoli. Quindi sì. È chiaro che, voglio dire, la situazione è complicata. Dopo quella condanna, per come appare definirsi il dibattito all'interno della giunta per le elezioni, è chiaro che le larghe intese sono a rischio, lo scrivete tutti i giorni sui giornali, lo si dice, insomma. Però da parte nostra il senso di responsabilità non viene meno, siccome la fermezza e l'unità del partito nel chiedere l'agibilità politica per Silvio Berlusconi e nel pretendere che prima di un atto estremo come il voto sulla decadenza ci sia un approfondimento di discussione. Ci sia un approfondimento, perché sono questo molti mi sembra chiaro di legittimità della legge Severino, e quindi non si può decidere in maniera superficiale o qualunquista con quattro battute un tema e una discussione così delicata. Però per voi a questo punto, è chiaro che voi vorreste un approfondimento di discussione, un'apertura del dialogo con il PD su questo e portare avanti il governo Letta per il senso di responsabilità che diceva prima, ma dovendo alle strette viene prima il tema dell'agibilità di Berlusconi, il vostro leader, o portare avanti il governo Letta, per esempio, che possa abolire, come chiedete voi, l'IMU? Quale delle due cose è più importante per voi? Guardi, per noi sono importanti entrambe e sono strettamente connesse, perché Berlusconi è stato il primo a volere il governo di larghe intese ed è colui che oggi più di tutti gli altri si preoccupa del rispetto delle promesse nei confronti dei cittadini. Pensiamo al tema l'IMU e condivido totalmente il tweet di Renato Brunetta, perché la polemica di Fassina sui grandi ricchi è fuori luogo, nel senso che non abbiamo mai proposto l'abolizione dell'IMU per difendere i grandi ricchi, ma per dare un sostegno alle famiglie, ai cittadini, alle imprese e quindi per rilanciare un settore strategico. E questo è un tema di cui Berlusconi si occupa e noi con lui. Dall'altro lato c'è un tema che è quello della democrazia, dell'agibilità politica di Berlusconi e di un comportamento di correttezza tra alleati che è strettamente connesso alla tenuta del governo. Quindi non c'è un prima e un dopo, c'è un groviglio di situazioni da sistemare. Io mi auguro e lavorerò fino all'ultimo per quel che è nelle mie possibilità perché prevalga il buon senso, il senso di responsabilità, perché si superi la guerra dei 20 anni, perché non è possibile che la sinistra non riesca ancora oggi a vedere in Berlusconi un avversario politico ma non un nemico da abbattere. E quindi credo che nell'interesse del paese si debba voltare pagina. Ma lei pensa che il PD, in caso avesse un suo esponente candidato in via condannato in via definitiva, voterebbe contro la decadenza in Parlamento per un suo esponente, quello che voi chiedete che faccia per Berlusconi? Noi chiediamo una cosa diversa, chiediamo di valutare se la legge Severino e quindi la decadenza si applica a Berlusconi oppure no. Quindi la domanda che lei mi pone non è coerente con la nostra richiesta, perché qui c'è di fronte un tema giuridico molto pesante, tant'è che sono intervenuti costituzionalisti, penalisti, esponenti del CSM. Cioè, a me ha molto sorpreso questa ridda di dichiarazioni, di interviste, di persone che non fanno politica, che non sono berlusconiani di stretta osservanza, ma che hanno posto dei macigni, delle questioni significative. Noi chiediamo al PD di approfondire queste questioni e quindi valutare bene l'agibilità politica di Silvio Berlusconi. E credo che se il PD dovesse tenere un comportamento viziato dal pregiudizio verso Berlusconi, commetterebbe un errore grave per se stesso prima che per Berlusconi e per il centrodestra. Qui si tratta di non parlare ma di praticare la pacificazione, e questo si fa non punendo o privilegiando Berlusconi, ma applicando la legge. E quindi su questo deve essere il percorso che a mio modo di vedere la giunta e gli esponenti della giunta per le elezioni debbono seguire. Senta, perché ma lei il paese ha bisogno di risposte, ma ha bisogno di recuperare un clima di collaborazione, di responsabilità, e credo che anche il compito di Enrico Letta, che è un compito estremamente difficile, delle forze che compongono questa maggioranza, sia un compito che debba essere agevolato, al quale tutti dobbiamo concorrere, abbandonando le conflittualità del passato che hanno connotato una stagione che ha reso davvero la politica molto complessa e poco capace di incidere. Senta, ma lei ci metterebbe la mano sul fuoco che non ci sono dei parlamentari, per esempio del PDL, che in caso di vostre dimissioni o di insomma decadenza del governo Letta non siano disposti, come leggiamo invece qualche transfugo, ci sono sempre, no, dei parlamentari di passaggio disposti a sostenere un Letta bis? Assolutamente sì, metterei la mano sul fuoco, perché da parte del PDL, dei parlamentari, deputati, senatori, tantissima compattezza, lo ha ribadito anche il presidente del gruppo al Senato, Renato Sani, noi siamo uniti, e mi spiace che all'esterno possa essere a seguito, forse ripeto, di qualche errore che abbiamo commesso, ma anche di molte forzature giornalistiche, essere apparso invece un partito diviso. Non è così. C'è massima compattezza, massima coesione, e c'è la volontà di agire, di fare politica nell'interesse del Paese, però difendendo anche la nostra storia e difendendo le prerogative di Silvio Berlusconi, che fino a prova contraria è un leader votato da milioni di elettori, un imprenditore che ha creato benessere e occupazione in questo Paese, che ha favorito il pluralismo nell'informazione, che ha rappresentato l'Italia al G8, al G20, in giro per il mondo. Ecco, pensare che questa persona, sulla base di una sentenza che davvero ha molte ombre, debba scegliere tra i servizi sociali o gli arresti domiciliari è un qualcosa che un certo tipo di magistratura dovrà spiegare al Paese, perché comunque sono molti gli italiani che anche in queste giornate di festa, di vacanza, ci rappresentano i loro dubbi e la loro profonda stima, la loro profonda solidarietà nei confronti di Silvio Berlusconi. Quindi io credo che dobbiamo, come dire, facendo tutti un passo indietro, ristabilire il principio di separazione tra i poteri, ma questo non vuol dire che la politica debba fingere di non guardare alla riforma della giustizia, perché le sentenze si rispettano, però anche il diritto e la legge debbono essere rispettati. Quindi credo che, come dire, abbiamo molta strada da fare nella direzione della pacificazione e nella direzione della pratica della separazione dei poteri, il che vuol dire sì, che quanto anche Napolitano recentemente ci ha detto, cioè richiamandoci alla riforma della giustizia, è un qualcosa che dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare dentro un clima di serenità e di confronto e non di scontro. Va bene, grazie, ci fermiamo qua. Abbiamo la borsa. Grazie a Maria Stella Gelmini. Buona serata, buona estate, buona fine estate. Grazie per essere stata con noi. 800 24 00 24. Insomma, abbiamo cercato di sfrucugliare un po' anche sulla questione Falchi Colombe. Qualcosa ha detto, c'è stata un po' di esagerazione. Bisogna fare qualche domanda in più sulla Sant'Anchè, ma probabilmente non avrebbe neanche risposto. Gabardini? Presente? Presentissimo. Ci sono risposte su Twitter di Brunetta? No, perché per il momento no. Mi piace che abbia usato la stessa l'espressione plotone, di usare la giunta come un plotone d'esecuzione, che è la stessa che ha usato Quagliarello, il motivo per cui Nadia Urbinati, che abbiamo intervistato venerdì. The low venerdì. Is the low, dovremmo farla risentire. The low is the low. And now, the good news! A Milano sta avendo grande successo l'iniziativa di Bicibus. Chi vuole raggiungere concerti ed eventi può farlo in bicicletta, unendosi a dei gruppi di amanti delle due ruote che si accordano sul web per affrontare assieme il tragitto. Perché pedalare in compagnia è la miglior cosa che ci sia! Un po' di ascoltatori, 349-238-6666, scrivono: perché non ha interrotto il comizio della Gelmini? No, come facciamo a interrompere un ospite? Non è che già una volta con la Biancofiore, perché le abbiamo fatto presente che ci sono due terzi dell'elettorato che hanno votato contro Berlusconi, se n'è andata e ha buttato giù il telefono. Lunedì fa si buttare giù il telefono alla Gelmini, si inizia malissimo la settimana. Bisogna anche farle parlare alle persone, no? Perché qua cerchiamo di sviscerare i punti di vista e quindi gli facciamo dire quello che ognuno ritiene giusto. 800 24 00 24, cominciamo con gli ascoltatori. Antonio dalla provincia di Udine, buonasera. Buonasera, mi scusi, sono un po' emozionato. Volevo fare tre punti. Il primo, che ho riferito alla sua collega, sì, riguardava il fatto dell'onorevole Fassina, che ha detto che chi ha la casa più costosa sarebbe giusto, se non ho capito male, sarebbe giusto che pagasse l'IMU. Sì. Forse questo discorso sarebbe da fare anche a qualcuno che magari ha stipendi un po' più alti, non faccio nome e cognome. Poi, cioè? La seconda cosa... Cioè, non solo se uno ha la casa bella, ma anche se ha lo stipendio molto alto e una casa bruttissima paga l'IMU. No, dovrebbe abbassarsi lo stipendio, magari pagare più tasse o abbassarsi la IMU. Questo però non è nel campo delle possibilità IMU, esatto. Cioè, ci sono le tasse IRPEF sul reddito, poi ci sono le tasse sul patrimonio, come l'IMU, che si paga in base al patrimonio. Sì, magari qualcuno, vabbè, che prende la pensione un po' esagerata. Quella è una cosa che anche a noi ci ha fatto parecchio infuriare quest'estate, quella delle pensioni d'oro. Sì, 13 miliardi di euro l'anno le pensioni, le 100.000 pensioni più care elargite, e sono quasi 13 miliardi di euro, una cifra, e poi sono pensioni di 10.000 euro lorde al mese di media. Prego, Antonio. E poi volevo fare due cose, mi posso permettere. La prima cosa, mi dispiace se l'onorevole Germini non possa essere, volevo chiedere, fare un invito. Forse io ho 44 anni e non ho molti alle spalle, è una modestia. Adesso c'è la destra e la sinistra praticamente che governano, non ho molti ricordi che ci sia stata una cosa del genere. È un'occasione, perché sprecarla? Va bene, Antonio, vuole dire un'altra cosa veloce, se vuole 30 secondi. Una cosa che sono veramente, io sono un artigiano, una cosa che sento nella pelle, mi sento dire da destra e da sinistra che siamo evasori, basta, non lo siamo. Lei di cosa si occupa, che lavoro, che artigiano è? Sono odontotecnico, sono una ditta individuale, mi creda, la crisi la sentiamo moltissimo noi. Lei fa tutte le fatture? Fattura tutto la luce del sole? Guardi, io faccio il doppio lavoro, nel senso che vado a fare la stagione durante sabato e domenica, da già da 3 anni, sono orgoglioso di questo. In più ho avuto una possibilità... Cos'è la stagione da odontotecnico? In effetti cameriere. Scusi, io non avevo capito, le chiedo scusa, pensavo facesse l'odontotecnico sulle spiagge, un mojito e una carie era divertente. Ma non in quei bar dove un succo costa 120 euro. Come? Non fa la stagione, non lavora in un bar dove, come è successo in Sardegna, un succo costa i prezzi 120 non euro. Non li so e neanche non mi interessa, perché già tanto non è mia... Non come i prezzi non li sai? Ma come fai a fare il barista se non sai i prezzi, scusa? Ma non sono titolare io faccio cameriere, distribuisco i piatti e basta, non mi limito... Dimmi dove lavori che vengo, se non ritiri i soldi è perfetto. Poi porta lo scontrino e chiudo. Ma io consegno la cassa, saranno loro dopo. Sto scherzando, ovvio. Guardi, mi creda, ho fatto adesso durante la stagione e durante questa crisi di 3 anni, ho avuto la fortuna, ho studiato come operatore sociosanitario, sì, e mi creda, mi si è aperto un mondo, con la disabilità, con aiutare la gente, tutto quanto. Mi chiedo, io la crisi la sto ringraziando, perché veramente ti si apre un mondo, se uno ha voglia... Ci si apre un mondo. Cioè, lei ringrazia la crisi perché le ha dato la possibilità di fare che cosa? Di fare tutto, perché prima facevo solo odontotecnico, lavoravo dalla mattina alla sera e adesso pure domenica. La notte. No. E adesso lavoro anche pure la notte, però ripeto, ho avuto la fortuna per casualità di fare l'operatore sociosanitario. Va bene, va bene. Ma siamo veramente, è forse un azzardo, ma siamo veramente alle ottime notizie, nel senso che se riusciamo a dire evviva c'è la crisi, ma non è il primo che lo dice. Cavallo. Abbiamolo, vuoi risentire l'audio di Nadia Urbinati venerdì scorso? Ma tutta la vita, io ce l'ho, professoressa come suoneria. Columbia University, che ha lasciato la commissione per le riforme istituzionali in polemica col presidente Quagliariello perché aveva fatto delle dichiarazioni sul caso Berlusconi, e ai nostri microfoni ne ha fatte di molto più belle. Sentiamo. Vedremo se loro riescono a votare secondo il principio the law is the law is the law o secondo il principio yes, the law is the law, but sometimes it cannot be the law. The law is the law is the law. E la Gelmini ha detto bisogna rispettare, però ha detto le sentenze. Anche la Racomi ha detto però una sentenza che ha molte ombre, ha detto la Gelmini. Sì, beh, questo insomma, lo dicono, insomma, è il loro punto di dopo vista. Dopo la Cassazione le ombre direi che sono però state dissipate sulla è sentenza. È difficile capire come si fa a rispettare una sentenza che uno non condivide, si continua a dire che ci sono molte ombre, però si rispetta la sentenza. Quindi cioè, sta un po' cambiando, secondo me, la posizione del PDL. È difficile anche capire, valutare se la legge Severino si applica a Berlusconi oppure no, nel senso che ovvio che sì, oppure sono io che sono ignorante, che non ho capito. Se si applica il caso di specie di Berlusconi, questo lo valuteranno le Camere nella loro autonomia, come previsto l'articolo della Costituzione sull'autonomia del Parlamento. Decideranno se sì o se no, ma in realtà che si applichi non ci sono dubbi, nel senso che si applica a tutti i politici che se sono condannati in via definitiva non possono essere eletti. Ma ci sono eminenti giuristi che hanno espresso dubbi sul fatto, non lo so neanche io, sul fatto se c'è la retroattività, la costituzionalità, e ci sono tante cose a vedere. Va bene, Silvano da Bergamo, buonasera. Buonasera. Buonasera, prego. Corriere della sera di ieri, titolone: il PDL alza i toni, decadenza inaccettabile. Cosa fa la rassegna stampa, Silvano? Negli ultimi 20 anni l'Italia è continuata ad andare in decadenza. Quella è accettabile? Io è avvenuta col contributo anche dei governi Berlusconi. Per me, indipendentemente dalle questioni giudiziarie, come capo di governo sarebbe da bocciare, o è da bocciare. Poi ha detto l'IMU a rimborso lo pago io. Momento, questo può suonare un po' a compra di voti. Beh, lei si è tornando alla campagna elettorale quando Berlusconi disse che sì, non lo pago, non è che disse lo pago io, riceverete disse, una lettera. Se vinco io ve la restituisco, questo è, che tra l'altro è quello che sta cercando di fare tuttora. Silvano, grazie, buona serata. And now the good news. È italiano il primo sito porno per beneficenza. Cam4Org è nato grazie alle donazioni della rete. A ogni video è associata una causa benefica che riceve tutti i ricavi provenienti da pubblicità, banner e donazioni. Sesso e cuore, per una volta insieme! Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Vi ricordate il caso Firem, l'azienda che nei giorni di Ferragosto, traslocata quasi nottetempo, avevamo sentito anche il titolare Pedroni che in parte negava, in parte no, in Polonia, una delocalizzazione in tempo record, avevamo sentito anche i sindacati infuriati per questa storia qua. Abbiamo il sindaco di Formigine, Franco Richeldi, buonasera. Buonasera a voi. Senta, intanto so che avete fatto anche c'è stato un incontro, un tavolo di trattativa su questa cosa qua con l'azienda, i sindacati, avete raggiunto qualche risultato? Perché Pedroni ci aveva detto, credo anche in esclusiva, in anteprima qualche giorno fa, che una parte della Firem resterebbe comunque a Modena. Sì, l'accordo, il verbale di intesa che è stato raggiunto con l'intervento nostro della regione, della provincia, tra organizzazioni sindacali e impresa, prevede appunto in nove sigle che possano riprendere il lavoro anche a Modena, e quindi sicuramente ci sarà la possibilità nell'arco di 15 giorni di presentare un piano finanziario da parte dell'azienda, che prevede comunque che la Firem non sparisce dall'Italia. Che ma l'avete tirato un po' per la giacchetta, Pedroni, perché inizialmente proprio il fatto che sia, che se sia andato praticamente mentre i lavoratori erano in ferie, lui poi l'ha detto, ha voluto evitare una trattativa sindacale perché sennò l'avrebbero impantanato. Invece voi siete riusciti a farlo tornare un po' indietro. Ma credo che l'azienda fosse impantanata per altri versi dal punto di vista economico-finanziario. Sì. Credo che l'atteggiamento e il comportamento che ha mantenuto il signor Pedroni, ma complessivamente l'azienda, sia stato tutto da censurare anche dal punto di vista non solo della tradizione sindacale emiliano-romagnola, ma anche dal punto di vista dell'etica dei rapporti tra imprenditori e propri collaboratori. Di notte, mentre i lavoratori sono in ferie, sono stati messi in ferie, fare scomparire l'unico vero patrimonio dell'azienda, oltre ai lavoratori che sono i macchinari, questa credo è un'azione assolutamente censurata. Non è stata una delocalizzazione come un'altra, perché chiariamo che un'impresa a un certo punto ha anche il diritto di decidere di spostare un pezzo della sua produzione altrove se ritiene di poterlo, di doverlo fare. Poi ci sono delle vertenze, delle trattative, si trovano le soluzioni per i lavoratori. Questa è una cosa diversa e lei ce lo sta confermando, è stata una specie di fuga nella notte. Certamente non è nemmeno una delocalizzazione di ramo d'impresa, perché in ogni caso quella che parte in Polonia è un'altra azienda diversa da Firem, no? E che chiaramente ha altre finalità e altri modi. Sicuramente una delocalizzazione può avvenire, è avvenuta in passato, potrà avvenire anche in futuro, ma è frutto sempre di un patto che può esistere tra il titolare, che ha sicuramente la libertà d'impresa, ma anche credo una responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori del proprio territorio, per cui alla fine nessuno esclude che attraverso i problemi che l'azienda aveva ci fosse la necessità anche di rivedere l'organizzazione complessiva dell'impresa, ma le modalità e il livello col quale è stato affrontato credo non sono assolutamente compatibili, e quindi l'accordo e il tavolo che siamo faticosamente riusciti a ricostruire ci permette di avere un anno davanti in cui credo il confronto potrà anche determinare scelte molto diverse. Senta, signor sindaco, noi l'abbiamo chiamata anche per un'altra ragione, perché il suo comune, abbiamo letto qualche giorno fa sui giornali, grazie alle segnalazioni fatte all'Agenzia delle Entrate di denuncia, diciamo, dei potenziali evasori, di possibili evasori o di evasori veri e propri poi accertati, ne avete fatte così tante che avete ottenuto il riconoscimento, lo stesso premio del Comune di Milano dall'Agenzia delle Entrate. Sì, grosso modo sì, un po' meno, ma sicuramente, però il nostro è un comune di 34.000 abitanti. Quasi un record. Sì, credo di sì, perché poi sono dati ufficiali del Ministero, questi 858.000 euro che contribuiscono sicuramente a far sì che noi riusciamo a chiudere il bilancio dal 2013 senza aumentare le tasse, e nello stesso tempo finalmente una volta per tutte ha pagato qualcuno che non aveva pagato però, prima. Ecco, ci spieghi un attimo quanto avete ricevuto dall'agenzia, cioè quanto avete contribuito a recuperare all'Agenzia delle Entrate e quanto avete incassato di premio? Noi abbiamo fatto 495 segnalazioni, tutte documentate e certificate, perché questo è l'accordo che noi abbiamo con l'Agenzia delle Entrate come amministrazione comunale. Quindi da quelle segnalazioni noi non conosciamo, perché non ci viene ovviamente segnalato, chi siano state le persone, le imprese, le situazioni che hanno pagato, però il fatto che il Ministero ci attribuisca 858.000 euro vuol dire che abbiamo colpito, credo, nel segno anche per quanto riguarda le segnalazioni di consistente entità. Quindi io credo che ci sia una cosa fondamentale da dire, che se in Italia volessimo veramente fare una battaglia nei confronti dell'evasione, forse riusciremo anche a vincerla, e quindi contro una società dei furbi ci può essere anche una società più giusta, perché meno pagano e più ci sono gli evasori, e più credo le persone che invece ottemperano le regole e pagano sono poi le persone che di fatto sostengono la nostra economia. Quindi questo è profondamente profondamente ingiusto. Voi siete arrivati terzi in classifica dopo Milano e Bergamo. E Bergamo, sì. Quindi per un comune piccolo come il vostro è un dato abbastanza clamoroso. Ma come la mettiamo con chi, come diceva il vice ministro dell'economia Fassina, evade perché non ce la fa? No, noi allora le nostre documentazioni e certificazioni sono rivolte per il 60% alle questioni di carattere urbanistico, edilizio e di territorio, quindi passaggi di proprietà di terreni, di società, imposte di registro, eccetera. Per il 25% sulla capacità contributiva, se uno gira in Ferrari ovviamente e chiede un sussidio per la mensa scolastica, credo che ci sia una contraddizione molto forte. Chiaro. E un 15% per il patrimonio immobiliare. È sicuro che le vostre richieste di accertamento, le vostre segnalazioni vanno tutte a pescare non in una situazione di evasione dove magari ci può essere. Lei condivide tra l'altro questa cosa, ci può essere l'evasione perché uno non ce la fa arrivare alla fine del mese? Io credo che ci siano effettive difficoltà da parte di imprese, soprattutto piccole artigianali, che hanno obiettivamente difficoltà di accesso al credito, difficoltà per avere comunque possibilità di liquidità, per cui alla fine è vero che ci sono aziende che sono in difficoltà, ma noi non abbiamo inteso né colpire né credo segnalare queste situazioni. Le situazioni che noi abbiamo segnalato sono tutte situazioni che certificano invece una contraddizione tra quanto si denuncia e quanto invece è il modello di vita e le condizioni di vita o eccetera, frutto peraltro di un patto per la legalità che noi abbiamo sottoscritto 2 anni fa assieme a tutte le associazioni artigianali, commerciali, organizzazioni sindacali, proprio perché noi abbiamo messo nel nostro programma di amministrativo una delle priorità assolute è quella della scelta della legalità per tutti e il rispetto delle regole. Quindi... Ma avete messo su un pool apposta per avere questo ampio numero di segnalazioni oppure è l'ordinario lavoro diciamo che c'è? Noi abbiamo 6 persone che sono abilitate e intervengono su questa vicenda, sì? Sono le 6 persone addette ai tributi che però dialogano attraverso ovviamente internet, dialogano con gli altri settori della nostra attività amministrativa, come l'edilizia, come gli stessi uffici preposti per esempio ai tributi, alle tasse scolastiche, eccetera. Però queste 6 persone lavorano specificatamente su questo. Sono 6 persone abilitate, formate, che lavorano su questo. No, non lavorano esclusivamente su questo, però sono abilitate e formate per lavorare su questo nostro obiettivo. Va bene, grazie. Allora al sindaco di Formigine, Franco Richeldi, abbiamo fatto un punto sulla Firem, sul caso Firem, e poi insomma casualmente, visto che il suo comune è terzo in classifica per gli incassi e per i premi ottenuti dall'Agenzia delle Entrate sulla lotta all'evasione. Grazie, buona serata. Abbiamo ancora un minutino prima del giornale radio. Sentiamo Francesca che ci chiama da Varese, buonasera. Ah sì, buonasera dottor Maurizi. Volevo anzitutto ringraziare Radio 24 e naturalmente lei e lo stagista Gavardini. Buonasera, grazie. Grazie. Sono emozionatissimo. La formula di quest'anno è stata veramente azzeccatissima e credo di parlare a nome di tantissimissimi ascoltatori che pur apprezzando la Zanzara nella sua formula solita sicuramente hanno avuto un mese di relax. Meno male, li faccia chiamare tutti che io li conto. Potete fare anche un fan club, noi non ci offendiamo. Sì, grazie. Tra l'altro io sono quella che con Gavardini chiacchiera per via della faccenda di Varese, tanto per aprire chiudere. Sospettavo leggendo Francesca la Varese. Adesso sta diventando un po' criptica la cosa, perché diciamo solo perché Varese, perché Gabardini è stato sul set del suo film la settimana scorsa, a proposito Aluino, Varese, delle sue assenze dagli studi di Radio 24. Dal mio stage, erano assenze però, giustificate. Facciamo un passo, Francesca voleva dire qualcosa? Sì, no, io mi ero prenotata per Brunetta, a parte che gli argomenti sono tantissimi. Anche quest'ultimo, guardi, mi ero prenotata per Brunetta, E now, the good news! Eugenio Venditti ha investito 50.000 euro in una giovane impresa di software per l'arte e l'antiquariato che ha un database unico al mondo. Per questo è stato premiato come miglior business angel dell'anno. Angelo sì, ma con l'interesse. La Gelmini, credo appena attaccato da noi il telefono, ha subito twittato rispondendo al tweet che vi ho letto prima di Renato Brunetta, Brunetta sull'IMU, e dice: Renato Brunetta dice il vero, sulle case, sulle ville di lusso si paga già l'IMU e si pagherà, diciamo no all'IMU su altre categorie. Anche se non sbaglio, in realtà la questione non è tanto le case di lusso, ma è capire se l'IMU sulla prima casa viene tolta a tutti o se viene tolta solamente ai meno abbienti, giusto? Sì, stavo guardando un'altra cosa invece. C'è Letta, a proposito del Consiglio dei Ministri di oggi, che annuncia l'assunzione di 1000 vigili del fuoco, un investimento nei confronti del nostro territorio, dice. Poi c'è la questione della stabilizzazione dei precari. Vabbè, cominciamo con i titoli intanto del TG3. Vertice interlocutorio sull'IMU tra Letta, Alfano e i ministri economici. Del Rio si lavora ancora per trovare una soluzione. Valutiamo tutte le opzioni. Berlusconi richiama i falchi del PDL. Stop alle dichiarazioni, serve coesione. Non alimentiamo polemiche. E la Cassazione acquisisce l'intervista del giudice Esposito. Epifani, quella di Berlusconi non è una questione democratica, riguarda il PDL. Voteremo per la decadenza da senatore. Grillo, pronti a vincere le elezioni. Le politiche monetarie, ma soprattutto l'incertezza politica, scuotono la borsa. Giù Piazza Affari, raffica di titoli sospesi, affonda Mediaset e torna il rischio spread. Ilva, Indesit, Fiat, Mirafiori, Lucchini, decine le vertenze aperte al rientro dalle ferie e il Consiglio dei Ministri approva le misure sulla pubblica amministrazione. Siria, spari sugli ispettori dell'ONU. Secondo indiscrezioni, Stati Uniti e Gran Bretagna pronti a intervenire. La Russia non senza le Nazioni Unite e la Casa Bianca smentisce. Il sogno di Daria Derkash, campionessa di salto triplo di origine ucraina, dopo 12 anni è diventata italiana. Gli stranieri sono una risorsa, dice al TG3. Chissà se va, chissà se va, se va. Ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va, che va. E se va, se va, se va, tutto cambierà. Forza ragazzi, spazzola, e chi mi fermerà? Chissà se va, chissà. Io spero se che, va, il, chissà che il PDL guardi agli interessi del paese, perché non è qua un duello tra PD e PDL, c'è un'Italia in grandissima difficoltà che aspetta risposte. Ripeto, trovo davvero immorale che si pensi a un riccone che vive in un mega appartamento e non si pensi a un esodato, a un disoccupato. Non è una sfida tra PD e PDL, non è un duello, è un atteggiamento serio di chi vuole mettere al centro i problemi del paese. Se il PDL di fronte a un disoccupato in difficoltà, di fronte a un esodato, di fronte a un commerciante che si vede l'aumento dell'IVA e il calo del fatturato, sì, di fronte a una famiglia in difficoltà, continua a privilegiare i super ricchi, se ne assumerà le responsabilità. Aspettiamo la proposta del governo. Fassina è vice ministro dell'economia. Mi pare che Fassina non sia ancora il ministro dell'economia. No, il vice ministro, però insomma sarebbe grave se fosse io smentito. Devo dire, no? Io rispetto le gerarchie, aspetto la proposta del ministro Saccomanni. E chi mi fermerà? Chissà se va, chissà se va, chissà se va. Vabbè, queste sono le voci di giornata di Stefano Fassina, vice ministro dell'economia, vice ministro di sottolinea Brunetta, e appunto di Brunetta, il capogruppo del PDL alla Camera. Sulla questione dell'IMU si duetta, ci si dà di fioretto su questa questione, staremo a vedere. Però sembra che, insomma, la questione dell'esclusione delle residenze più di lusso sia accertata. Poi anche qua si può giocare sui termini, perché questo era già previsto. Bisogna vedere poi se l'IMU sparirà per tutti, oppure anche in base ai redditi di chi è proprietario della casa o ai criteri dell'immobile stesso. Vabbè, qualche anche giorno per difendere proprio le case di stralusso diventa un po' quello non impossibile. Le difende nessuno, ma no, infatti non è nessuno. Quello è però capire se è sulla prima casa, se è sulla prima casa per tutti o se è sulla prima casa solamente per chi non se lo può permettere, insomma. È il punto di ricaduta che poi farà la differenza, staremo a vedere. C'è la questione dell'incandidabilità alla giunta del Senato che voterà i primi di settembre. Zoggia del PD, sentiamo. Il Partito Democratico ritiene che la legge sia uguale per tutti. La Costituzione da questo punto di vista è chiarissima, per cui non c'è nessun cittadino che sta sopra la legge. Ci auguriamo che il Popolo delle Libertà riesca a scindere le questioni giudiziarie di Berlusconi dalle questioni del governo e dia la forza al governo per continuare a dare risposte che i cittadini italiani si attendono. Così Zoggia, noi abbiamo intervistato invece questa sera Maria Stella Gelmini, che ha detto in sostanza: non chiediamo al PD di fare un voto piuttosto che un altro voto su Berlusconi, ma se la legge Severino si applica o no al caso Berlusconi, chiediamo comunque il tempo di fare i necessari approfondimenti. È quello che viene detto in questi giorni. Non ci sono, ha detto la Gelmini, differenze tra falchi e colombe. Forse qualche esagerazione verbale da parte della Santanchè c'è stata, anzi senza il forse, questo l'ha detto anche lei. Però naturalmente tutti coesi attorno a Berlusconi. Sentiamo Calderoli che getta uno sguardo sul dopo Letta, dice: non ci sarà compravendita di senatori, come qualcuno invece sui giornali sta già scrivendo. Non ci sono matematicamente i numeri per sostenere qualunque altro governo, neanche attraverso la compravendita dei parlamentari che stanno cercando di fare. L'unica risposta sono le elezioni subito. Sai quanto me ne importa che me ne... È un po' decaduto il tema della grazia, non se ne parla più. Dalle parole di Napolitano si era capito che la grazia Berlusconi avrebbe potuto chiederla iniziando intanto ad espiare la pena, poi magari anche chiedendo scusa o ammettendo la sua colpa in qualche modo, cioè iniziando un percorso proprio di pacificazione. In più, avendo diciamo in corso ancora dei processi, diciamo che non credo che gli sia mai sembrata una cosa saggissima, una vera opzione, però insomma chiedere adesso perlomeno. Su questo il direttore alla giornale fine dei conti, Alessandro Sallusti, ripreso da Agorà mentre si trova al Twiga a Forte dei Marmi insieme a Daniela Santacchè, che credo sia socia di Briatore. C'è stata anche tutta una polemica estiva sul insomma le lotte della pitonessa in vacanza, però al Twiga. Sentite Sallusti che dice: Berlusconi non chiederà mai niente. Pensare che Berlusconi chieda scusa vada ai servizi sociali, si ritiri dalla politica, non sono assolutamente inconciliabili, non solo con un leader politico di un grande partito, ma sono inconciliabili con Berlusconi uomo. Chissà se va 800 24 00 24. Tra poco con i vostri interventi su questi argomenti di giornata. Adesso però è il momento del nostro punto di vista strambo, che oggi vogliamo dedicare a una questione un po' vacanziera. Insomma, qualcuno sta rientrando forse proprio oggi dalle vacanze, qualcun altro magari chissà ci va adesso, non so, o settimana prossima, tipo noi speriamo che finiamo il programma qua. E allora vogliamo dare un suggerimento per una vacanza diversa che costa, promettono, solo un euro. Parliamo di Family Link Travel, che è un sito nel quale si fa che cosa, lo chiediamo a Riccardo Urbani. Buonasera. In vacanza con un euro in realtà è un po' eccessivo, insomma è un po' una forzatura. Cioè voi promettete di mettere in rete la gente che si scambia sostanzialmente la casa e quindi si risparmia un bel po'. Sì, non solo questo, nel senso che le parole chiave sono due: una è la famiglia e l'altra è l'incontro, l'amicizia. Cioè ci si scambia anche la famiglia? No, scusi, perché mi sembrava un'ottima idea, così diciamo, pensando a mia mamma. Ogni tanto viene voglia anche a me, ma non è questo. Anche lei pensando a mia mamma? Le viene voglia? Ah, alla sua forse. Pensando alla mia famiglia. Urbani, ci racconti come funziona questa iniziativa, che non è l'unica in questo genere, ma che voi invece state conducendo. Per esempio, quest'estate c'è stata un po' una ripresa di interesse intorno a questo tema? Sì, sì, anche perché voglio precisare una cosa, che non è il nostro sito non offre esclusivamente scambio case, ma, e qua in questo siamo gli unici, un'ospitalità con le persone della famiglia ospitante presenti. Cioè quindi non si va in una casa vuota, ma si va in una casa con della gente dentro che ti può anche... Un bed and breakfast, aiutare, diciamo. Un bed and breakfast gratuito. Sì. Ottimo. E come funziona? Funziona in questo modo. Allora, le persone si iscrivono alla community, dopodiché sfogliano i membri, le famiglie della community, e quando trovano una famiglia che gli piace oppure che vive nel luogo dove vogliono andare in vacanza, possono conoscerli sempre nella chat del sito, un po' come funziona con Facebook, conoscersi e mettersi d'accordo, e poi è fatta. Però quello che mi chiedo sempre di questi meccanismi è che io devo avere, diciamo, una casa tra virgolette di una bellezza equivalente per poter dire: guarda, io ho questo bellissimo posticino con vista sulla discarica e volevo venire a New York, famo cambio? E qui diciamo che questo può anche succedere, però io vedo che almeno nel, diciamo, fra le persone che sono iscritte adesso, sì, ci sono cose anche molto carine, perché per esempio uno può abitare in un monolocale, però a Londra capisce bene che è come la mia casa in provincia di Ancona, qui, certo, che la mia casa è grande. Cioè, per un monolocale a Londra ci vuole un appartamento di 200 metri quadri ad Ancona. Perché, esatto, perché e cosa, tra l'altro, tu fai un weekend a Londra e loro vengono per sei anni ad Ancona. Più o meno siamo lì. Ma una cosa mi incuriosisce, il tema della fiducia, no? Cioè, uno non può sapere prima esattamente chi ospiterà, naturalmente. E come si fa a entrare in questo clima di fiducia, a fidarsi? Ma guardi, intanto c'è modo, come dicevo prima, di conoscersi via web, sia chattando che poi magari, sì, usando Skype o Hangout di Google. E quindi già le persone... Ci si vede, questo, esatto, già conta, sì. Conta tantissimo. E poi io ho visto nella mia esperienza che finora, devo essere sincero, noi abbiamo ospitato finora una quindicina di famiglie e non è andata male una. Per cui probabilmente anche le persone che si iscrivono sono già nello spirito. Ma fra l'altro è vero che lei sta ospitando adesso una famiglia? Sì, insomma, sono arrivati da 10 minuti. Ah, però, siamo sui, sì, saluti, l'abbiamo beccato proprio sui saluti. E chi sono? Da dove vengono? Ah, ecco, volevo dire una cosa a proposito, sì, di questo. È un padre con due figli. Sì. E volevo dire quindi una cosa molto importante, che noi come famiglia intendiamo, diciamo, il vasto mondo attuale delle tipologie familiari, per cui ci sono genitori separati con figli. Vabbè, questo immagino, cioè, non è che se uno ha genitori separati, no, non ti vogliamo, sarebbe stato un po' perfido. O ci stava spiegando che ovviamente vale anche per qualcuno che ha due papà. Questo non mi è ancora capitato, però la cosa singolare è che questa settimana ospitiamo, sì, due famiglie e sono due padri con due figli. È una cosa un po' singolare, insomma. Vabbè, però ogni famiglia è composta da padre e figlio. E due figli in questo caso. Ma sono due famiglie separate, però. Sì. Ah, sì, ecco, sì, sì, poi si ritrovano lì. No, quindi... perché parlavamo del monolocale di Londra, voglio dire, se uno vuole scambiare con Londra, ci mancherebbe altro che non accetti che se c'è una famiglia, esatto, fatta da due mamme. Esatto, sì, sì, può anche capitare. E quindi, insomma, ci conferma anche dai dati del vostro sito che questo sistema forse è un po' un metodo anche anticrisi, visto i tempi, per poter, sì, andare in vacanza? Sì, io credo che ancora c'è un po' di pregiudizio in Italia, mentre all'estero, beh, sullo scambio casa l'estero è... insomma, ormai viaggia a una velocità della luce. In Italia siamo un po' più lentini ad accogliere queste cose nonostante la crisi, però si sta muovendo molto, devo dire. Ma viene anche Italia su Italia, diciamo, nel senso che io ho una, sì, casa in montagna, voglio fare una settimana di mare, scambio con qualcuno che ha la casa al mare. Credo, sì, che sia, sì, il più classico, perché se uno sta a Rimini non credo che cambi casa con uno che sta a Riccione, giusto? Esatto, sì, sì. Comunque sì, Italia su Italia sta funzionando. Va bene, e complimenti, grazie per questa bella iniziativa, Riccardo. Posso Urbani, dire, sì, una cosa? Sì, sì, sì, sì, certo. Visto la gentilezza che mi avete ospitato anche nella vostra trasmissione, se ci sono degli ascoltatori interessati, noi, sì, basta scriverci una mail a info@familylink.org e i primi 5 che ci scrivono avranno un'iscrizione vitalizia al sito. Addirittura, per adesso le scrivo subito. Okay. No, esclusi il conduttore del programma che non vale. Grazie, buona serata, grazie, Riccardo Urbani. Arrivederci, grazie. And now the good news. Sei lavoratori di una cooperativa che si occupa del sito archeologico di Posillipo, alla fine del loro turno di lavoro, si dedicano a spazzare la strada vicina e a ridipingere le pareti imbrattate. Lo fanno a gratis, per amore della città e dei turisti. Samaritani del dopolavoro. Allora, 800 24 00 24, avevamo, la risentiamo, Francesca da Varese, l'avevamo interrotta prima del giornale radio. Francesca, eccoci qua. Sì, sono qua, grazie. Senta, io, sì, avevo chiamato in realtà per Brunetto, ho sentito tra l'altro il contributo che avete mandato di Fassina, col quale mi trovo d'accordo spesso, anche se è un po' un divago, no? Però su questa cosa naturalmente ha ragionissimo. E volevo parlare di Brunetta proprio perché sinceramente da ministro ha insultato il mondo, la sinistra per male, che ha mandato a morire ammazzata, i precari e così via. polemiche con Del Rio sull'IMU, polemiche con Letta, dice Patti Chiara, amicizia lunga, eccetera. Ma ci parlasse piuttosto dei 4 milioni che il governatore Caldoro della regione Campania ha dato alla fondazione di Ravello, dove lui guarda caso a casa, cioè che è tanto ispettivo nei confronti degli altri, documentasse lui quelle che sono evidentemente cose di cui non ha di che vantarsi questo integerrimo ministro, anche perché da ministro della pubblica amministrazione ai tempi non è che abbia concluso un granché, del gran insultare fannullone così via, però alla fine siamo immerdati con la burocrazia come prima. Siamo? Questo. Sì, ha detto quello. Ah, perfetto. Non l'ho detto io, mamma. Grazie. Grazie, Francesca. No, grazie. No, diciamo sempre che non si danno mai soldi alla cultura. Poi, una volta che danno 4 milioni al Festival di Ravello, adesso dovremmo essere contenti. Non lo so. Questa è una cosa. Fra l'altro, Brunetta quest'estate è al centro di questa questione qua. Poi c'è la questione della discarica di Falconiara a Roma, che lui dice in pieno conflitto di interessi personale sta osteggiando. Vuole che non si faccia, perché lui abita proprio lì sull'Ardeatina, e Brunetta in mezzo poi al limo, naturalmente, a tante cose. Sarebbe una bella intervista da fare, chissà se ci riusciamo nei prossimi giorni. Andiamo a Guido, che ci chiama dalla provincia di Roma. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Io chiamavo perché ho sentito abbastanza esterrefatto l'intervento della signora Gelmini, che non so come definirla. Diciamo, nel clima di pacificazione nazionale la definisco fantasiosa, se non fossimo sotto pacificazione la definirei ignorante. Cioè, dire che le sentenze si rispettano, però bisogna tener conto della libertà, i diritti, a casa mia i diritti si accertano con le sentenze e la libertà viene garantita dalla magistratura. Cioè, questo voler continuamente parlare di separazione dei poteri, una volta che Berlusconi è Presidente della Repubblica la separazione dei poteri serve per farli stare sotto il governo. Ma quando come Presidente della Repubblica? Presidente, scusi, lapsus orribile. Lapsus orribile, Dio ci conservi Napolitano. Lapsus terrificante. Mi scuso con gli italiani. Ma prego, prego. Finisca. Quindi il concetto è le sentenze si rispettano e i condannati vengono, gli viene irrogata, bella parola, la pena. Sì, è che la Gelmini diceva che la sentenza ha molte ombre e che bisogna valutare se la legge Severino si applica a Berlusconi oppure no. Questo è il punto, allora, diciamo, della Gelmini al di là. L'unico punto della legge Severino sul quale qualcuno sta provando ad arrampicarsi sugli specchi è nella retroattività. Però mi pongo un problema di carattere politico, anche se sto parlando di legge. Se la legge Severino è una legge fatta per impedire la presenza di pregiudicati in Parlamento, sì. Il fatto che la condanna di Berlusconi sia arrivata dopo la sua elezione, sì. Non vuol dire che la pena non può essere applicata o che l'incompatibilità non può essere invocata perché sarebbe un caso di retroattività. Vuol dire un'altra cosa, vuol dire che la sentenza, quando è arrivata, ha accertato il fatto che Berlusconi è un delinquente, tecnicamente parlando, cioè ha commesso un reato. Ora, il reato lo ha commesso ben prima della sua elezione, quindi il fatto che la sentenza sia arrivata dopo non vuol dire che verrebbe applicata un qualcosa di retroattivo. Va bene, quindi sarebbe... abbiamo capito. Fra l'altro questa questione qua, oltre a essere complessa, non la risolverà mai nessuno, perché è chiaro che la legge Severino è stata fatta per essere applicata anche ai casi come quello di Berlusconi, perché se no uno cosa la fa a fare una legge? Perché la vuole applicare, infatti è stata già applicata nelle elezioni amministrative, con candidati, che potenziali candidati che erano stati condannati per fatti commessi prima della legge Severino, ma Questa era l'intenzione. Poi che facendo un ricorso alla Corte Costituzionale o andando a Strasburgo si accerti che questa cosa qua non può essere retroattiva, che non si può fare, questo è anche possibile, perché l'Italia da questo punto di vista è il paese delle sentenze in tutti i campi, come sappiamo benissimo quest'estate, e quindi questo staremo a vedere. Ed è quello che chiede il PDL, cioè di fare questo approfondimento per togliere di mezzo questo dubbio qua. Staremo a vedere se il PD gli darà retta oppure se farà come Epifani, che ha detto non c'è quasi nulla da discutere, il nostro voto politico, perché di questo poi si parla in Parlamento, è già stato delineato e sarà un voto a favore della decadenza di Berlusconi. Paolo da Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Buonasera. Sì, volevo solo mettere una domanda forse tecnica, non lo so, cioè mentre noi stiamo qui a parlare di guardandoci anche nell'ombelico, diciamo, sempre il problema di Berlusconi, agibilità o meno, cioè tutto questo fermare il paese, quanto danno economico produce? Questa è una domanda così secca. Domanda retorica, noi esatto. Ovviamente non siamo in grado di rispondere, i conti li faremo un'altra volta. Grazie Paolo. Ma grazie. C'è qualcosa sulla vicenda Bellucci? Perché anche questa è divertente, perché ci sono... È diventato top trend sì, signori. La separazione tra Vincenzo Castelli. Leggo Satira Scadente che dice: sì. Scoperta la causa della separazione Monica Bellucci Castelli. Lui la beccava sempre quando lei fingeva l'orgasmo. Perché era una pessima attrice, naturalmente. E su questo. Satira Scadente, questo lo dice. Il tono dei commenti è quasi tutto questo. Gabardini parecchio, fa l'attore, sì. Quindi non vuole infierire sulla Bellucci, no, che è attrice, perché è per una questione tra colleghi. No, è questo. Assolutamente. Però il tono dei tweet è quasi tutto. Tutti si divertono su questa cosa qua. Vabbè, se c'è qualcun altro carino, lo leggiamo. La Bellucci si è separata da Cassel, quindi tornerà a parlare marchigiano. Andrea da Pesaro, buonasera. Sì, buonasera. Salve, sentite, io sono un po' imbarazzato perché sì. Ero quando c'era la Gelmini e che io la sentivo e mi sono indignato così tanto, sì. Che ho chiamato e sono circa 40 minuti che aspetto pazientemente, ma mi si sono praticamente bagnate le polveri, se le avevo un po' accese, o meglio mi sono quasi addormentato. Cioè lei era arrabbiato contro la Gelmini, poi si è un po' addormentato. Vabbè, insomma, lei provi a pensare, sì. Mezz'ora del TG, brutte notizie, la Bellucci di cui non importa nulla a nessuno, e poi sì. L'intervento dell'ultimo signore Romano che ci ha fatto una questione un po' noiosa. Ha ragione. Sulla questione della, ma si può arrabbiare con noi però, si può arrabbiare può con noi per l'attesa noi, di 40 minuti. Abbiamo fatto aspettare troppo. Allora, sentite, io quando sì. Ho chiamato la Gelmini, quando parlava la Gelmini mi sono veramente imbufalito. Perché? Perché a 53 anni, dopo 25 anni di allevatore di vacche da latte, sostanzialmente fallito, non tecnicamente ma di fatto sì, ho dovuto smettere, e l'ho dovuto fare perché questo stato ladro e fetente mi ha messo nelle condizioni di non poter andare avanti, sentire la Gelmini che difendeva dei principi incredibili come quelli che abbiamo sentito prima, arrampicandosi sugli specchi come probabilmente può fare soltanto uno che fa il lacchè di Berlusconi, e tenga conto che io Berlusconi l'ho votato qualche volta. Ma lei perché è quasi fallito come allevatore di mucche da latte? Ma no, non faccio più questo mestiere perché le condizioni erano impossibili, e 2 anni e mezzo fa, dopo un sacco di vicissitudini, ho dovuto smettere. E ora cosa fa, se possiamo chiederglielo? Faccio l'agricoltore con grande, come dire, stanchezza e nessun entusiasmo, nel senso che in un paese come questo non è possibile fare gli imprenditori, soprattutto se si dicono le bugie che io sento dire continuamente e si tace sui problemi reali. Io non posso sentire la Gelmini e tutti gli altri che difendono Berlusconi in questo modo, e poi non c'è nessuno che dice che tra aprile e maggio il debito pubblico è aumentato di 37 miliardi di euro in un mese. Di che cavolo stiamo parlando? Berlusconi, che non mi sta più simpatico, ma condivido una cosa solo, che forse il più grande cancro che ha questo paese è il funzionamento della giustizia. Io ci sono pure passato, perché insomma, se vogliamo che un attimo ridere, io pubblico, sono stato però, condannato sì. In primo grado per aver stressato un cinghiale. Beh, poi in Cassazione hanno riso molto. Ci racconti questa che mi sembra più divertente. Bisognerebbe sentire anche il cinghiale, però. Cosa, esatto. Cosa ne e anche le vacche da latte, già che ci siamo. Stufo, sì. Mi sento male. Stanco di avere i miei campi devastati dai cinghiali, ho preso un cinghiale e l'ho portato in provincia di Pesaro. E certi santuari politici, in questo caso gli allora DS Ma scusi un attimo, Andrea. Allora, abbiamo capito, però ci deve dire perché lei è andato con un cinghiale davanti alla provincia di Pesaro, perché i cinghiali le danneggiavano i campi. Questo lo abbiamo capito, è noto tra l'altro, i cinghiali devastano tutto. Ma perché lei è andato col cinghiale davanti alla provincia? Per protestare contro cosa? Per punirne uno? No, colpirne uno per punirne 100. Che voleva essere tra il goliardico, ma non è stato apprezzato in questo senso, e però l'indignato, perché non si può pensare che gli agricoltori debbano sottostare alle prepotenze dei cacciatori di cinghiali, che decidono quando e chi può raccogliere il Gran Turco piuttosto che il girasole. Allora io venni condannato in primo grado per aver stressato un cinghiale, per averlo indotto, così recitava il capo di imputazione, a comportamenti contrari alla sua natura di selvatico, per cui lo stesso presentava sintomi di stato confusionale e di stress. Ma come hanno fatto ad accertarlo? È una storia stupenda, bellissima. Questo lo chiederei. Devo dire che è andato a finire bene, nel senso che i signori della Cassazione, sì, che parlavano un italiano molto migliore del giudice che ha condannato, e soprattutto del cinghiale, sì, parlavano un italiano molto migliore di quello che ha condannato Berlusconi, che non si capisce quando parla, quindi io, sì, sarei un po' infastidito a essere condannato da uno così. Si misero molto a ridere e io venni assolto in Cassazione. Ma insomma, queste sono cose. Ma scusi, chi ha fatto la denuncia a favore del cinghiale, tra l'altro? Non era una denuncia a favore del cinghiale. Come si è aperto questo procedimento giudiziario? Per caso, da solo? No, qualcuno avrà sollevato la questione. No, sono stato denunciato dopo 2 ore dall'allora segretario generale della provincia di Pesaro, che era un noto cacciatore di cinghiali e non accettava che si potesse stressare. Tra l'altro era un cacciatore di cinghiali, non si possono stressare i cinghiali, ammazzare e cacciare e mangiare. Ma questa è una storia vecchia che purtroppo non ha avuto soluzione, anzi io invito tutti gli ascoltatori che non ne possono più a fare altrettanto in tutte le province. Grazie Andrea, lei ci ha raccontato comunque non ci sia nessuno una che storia che valeva tutta questa telefonata. Grazie, buona serata. Oh, adesso invece facciamo un altro approfondimento, perché come abbiamo cercato di capire anche con Maria Stella Gelmini, ci sono dei movimenti, almeno sui giornali, di possibili parlamentari che potrebbero, dalle file del centrodestra o di quelli che non hanno sostenuto sin qua il governo Letta, sostenere un governo Letta bis in caso di divorzio tra il PD e il PDL. Abbiamo convocato l'onorevole Paolo Naccarato, buonasera. Buonasera a lei, spero che non ci sia anche una strage di colombe. Ah, perché lei è una colomba. No, non lo so, dico, ho sentito lei il signore, sì, prima che parlava di cinghiali. Dei cinghiali, speriamo anche che non ci sia una strage di colombe e anche di falchi, naturalmente. Lei ha fatto così un intervento subito a gamba tesa, cioè è entrato subito nell'argomento della discussione. È un problema di par condicio, diciamo. Perché di par condicio? Di par condicio fra animali. Fra animali. Certo. La Gelmini ha detto che c'è un dibattito ornitologico eccessivo sulla questione falchi-colombe, però lei ci dirà qualcosa. Sono assolutamente d'accordo con la Gelmini. Allora, lei è senatore, eletto con le liste di Tremonti, sì, appartiene al gruppo GAL, Grandi, sì, Autonomie e Libertà, è così? Sì. Sì, giusto. Ed è subentrato però in un secondo momento della legislatura, perché è stato il primo non eletto. Sì. Ero il primo dei non eletto, sono subentrato a seguito delle dimissioni dell'attuale assessore Garavaglia alla regione Lombardia. Sì. Ma lei, quando c'è stata la fiducia al governo Letta, c'era io già... Non ero in aula. No, non ero in aula, ma ho votato contro la sfiducia ad Alfano, sì, quando qualche settimana fa hanno proposto le opposizioni la sfiducia ad Alfano sulla vicenda kazaka, come ricorderà, e sì, ho votato convintamente contro. Però lei appartiene a un gruppo che invece avrà votato a favore di quella sfiducia. Io ho votato no. Il suo gruppo come ha votato? No, ha votato a favore di Alfano contro la sfiducia. Però il suo predecessore aveva votato la fiducia al governo Letta o no? Il mio mio predecessore, io non lo so, ma appartiene alla Lega Nord. Quindi io non dovrebbe averla votata la fiducia? Io no, francamente non lo so, lo ignoro. La Lega è all'opposizione. Esatto. Ma io non sono della Lega. Noi in sostanza però quello che noi capiamo, perché lei, tra l'altro, è di Cosenza, lei di dov'è? Esatto, io sono nativo di Cosenza, sono calabrese di origine, romano di adozione. È eletto con Tremonti, che è alleato della Lega. Che era legato per Tremonti, facemmo il movimento Trendle, fece un'alleanza politica o elettorale alle ultime elezioni. Ma quindi lei adesso potrebbe essere annoverato... Guarda la mia definizione, sì. Io sono un indipendente cossighiano. Cossighiano tremontiano, va, diciamola. Cossighiano di ispirazione, però. Perché... Assolutamente, di formazione e di ispirazione. Lei lo sa che Cossiga è sempre stato un grande amico di Berlusconi. Sì. Cosa pensava Cossiga di Berlusconi? Pensava che è diventato negli anni un grande politico. Altro che teatrino. Un grandissimo politico, e ha capito più e meglio degli altri come si fa politica nel nostro paese. Perché io non credo, anche per questo sì. Io non credo che staccherà la spina a un governo che per giunta è guidato da un signore che si chiama Letta, sottolineo. Questo conta, questo particolare conta, non è da poco. Non lo so, valuti lei. No, ma lo scrivono tutti che conta questo particolare, perché è il governo dello zio e del nipote, come dice Travaglio. Non solo, ma c'è un presidente della Repubblica che si chiama Napolitano. Vabbè, io mi chiamo Maurizi, qua abbiamo anche Gabardini, andiamo avanti così. Lei è Naccarato, che vogliamo fare? L'elenco dei nomi, sì. Cosa vuol dire che abbiamo Napolitano? Credo che abbiamo due personalità in questo momento che non sono certamente ostili al presidente Berlusconi. Però quando la Santanchè, uscendo dal vertice di Arcore, dice il governo Letta cadrà, io parlo per Berlusconi, e di fatto non viene smentita nemmeno dalle cosiddette colombe, che lei invece vorrebbe tutelare, come la mettiamo? Io non lo so, penso che Daniela faccia benissimo il suo mestiere, ed è una donna, e che mestiere fa, però? Oltre che charmosa e affascinante, di grandissime capacità che io ammiro, ma evidentemente lei sa quello che dice. Quindi cadrà il governo Letta? Lei ne io non credo. Però là, se mi dice che la Santanchè sa quello che dice... Ma la Santanchè sa quello che dice dal suo punto di vista. Io scommetto che il governo Letta non cade per rispetto alle vicende personali del presidente Berlusconi. Se poi ci sono delle ragioni politiche... Cioè il governo Letta conviene a Berlusconi, tra l'altro, io penso umanamente e politicamente. Guardi, le faccio solo notare, ma non ho visto che non lo dico solo io. E diciamo che politicamente risponde ad una domanda di stabilità che il Paese chiede e di continuità di un'azione di governo di cui vi è assoluta necessità se vogliamo dare un minimo di prospettiva e di serietà ai nostri comportamenti e non fare soltanto proclami. Primo. Secondo, la vogliamo mettere più terra a terra? E la stabilità finora ha dato grandi energie alla borsa italiana e quindi anche ai titoli di casa Berlusconi, giustamente. Spero che questo continui. Oggi vedo che comincia a traballare tutto questo trend positivo che i grandi finanziatori internazionali, a fronte delle crisi in Sud America, in Brasile, nella stessa Russia, in India, stanno rivolgendo di nuovo grande attenzione al mercato italiano. Credo che questo sia un argomento che non riguarda soltanto le aziende di Berlusconi, riguarda le aziende di tutti i cittadini italiani e riguarda soprattutto il futuro del paese. Oggi fra l'altro Mediaset ha perso il 6%. La stabilità è un valore. Sì, Naccarato, oggi però Mediaset ha perso il 6%, quindi non è che questa stabilità sia assicurata. Tra l'altro, se invece di andare incontro alla stabilità dovessimo andare incontro, come dice la Santanchè, alla caduta del governo Letta, perché magari lei sa davvero prevedere il futuro... C'è spazio in Senato per un'altra maggioranza a sostegno però sempre di un governo come quello di Letta? No, io non prevedo il futuro, ma ragiono con la mia testa e le dico che a mio giudizio, Berlusconi, se dovesse seguire la linea della rottura e dovesse il Senato trovarsi nella situazione lacerante di un voto fra la continuità di un'azione di governo e non so, non mi è ancora ben chiaro che cosa, io penso che in quella sede ciascuno si ritroverà solo con la propria coscienza a dover decidere liberamente cosa fare e lì ci possono essere sorprese e delusioni. Ah, sorprese e delusioni. Delusioni per chi? Sorprese e delusioni per chi auspica la caduta del governo e l'interruzione della legislatura. Quindi lei, pur essendo un cossigliano che stimava Berlusconi, mette avanti io il governo Letta. Io sono un cossigliano che stima molto Berlusconi. Però mette in primo piano la stabilità e il governo Letta. E poiché Berlusconi sa che Cossiga ed anch'io gli abbiamo sempre voluto molto bene, gli abbiamo però altrettanto sempre detto, come faceva ancor più Cossiga di me, le cose con grande franchezza e in faccia, perché l'amicizia è anche questa. Ma quando poi... Adesso cosa gli direbbe in faccia a Berlusconi? Quello che ho appena detto a lei. Ma io sono certo che non c'è bisogno che glielo dice nessun naccarato, lo sa benissimo da solo. Senta, onorevole, ma quando si arriverà poi al voto nell'aula del Senato? Lei è senatore. Sono senatore, mi consulterò con la mia coscienza e deciderò. Ma per le idee che si è fatto, fosse adesso il voto, lei cosa vota? Per quello che abbiamo, tutti abbiamo letto i giornali, tutti abbiamo un'idea di qual è la questione. Ma la mia idea è diversa, mi scusi. La mia idea è che io faccio un'offesa all'intelligenza e alla lungimiranza del presidente Berlusconi se dovessi davvero prendere in considerazione che nei prossimi giorni toglie la fiducia al governo Letta. E quindi non è una subordinata che io prendo in considerazione. No, questa no. Cioè, secondo lei si può votare la decadenza di Berlusconi e mantenere in vita il governo Letta? È questo che ho capito. Secondo me ci sono ancora grandi spazi e grandi margini perché si preservi la continuità dell'azione di governo. Cioè, allora la ridico, si tirerà a campare per un po' in Senato. Quando assolutamente poi... no. Nessuno vuole tirare a campare. No, per quanto anche riguarda la norma... vuol dire morire. No, per quanto riguarda la legge Severino, l'applicabilità della legge Severino. Ma guardi, vedo che lei forse ha delle certezze sulla legge Severino. Io ho solo dubbi. Le devo dire con molta franchezza. Del resto siamo in sede di prima applicazione, quindi avere dubbi è anche legittimo. Se ce li ha una grande personalità di sinistra come Luciano Violante o il presidente Capotosti e tanti altri, è legittimo per un poveretto come me, che non sono un giurista in erbe, avere dei dubbi. Del resto, voglio dire, a fare degli approfondimenti su questa materia mi sembra assolutamente di buon senso. Va bene, però quando poi quello che volevo dire io, le faccio la domanda intanto, al di là della legge Severino c'è anche l'interdizione che prima o poi il Tribunale di Milano dovrà ricalcolare, e qui cosa si farà? And now the good news. A Milano sta avendo grande successo l'iniziativa di Bicibus. Chi vuole raggiungere concerti ed eventi può farlo in bicicletta, unendosi a dei gruppi di amanti delle due ruote che si accordano sul web per affrontare assieme il tragitto. Perché pedalare in compagnia è la miglior cosa che ci sia. Vada come vada il voto che prima o poi ci sarà in Senato sulla decadenza di Berlusconi, ognuno voterà in base a quello che ritiene. Secondo lei, però, tra i senatori del PDL c'è qualcuno che non prenderebbe alla lettera il ritorno alle urne, ma che darebbe spazio a un'ipotesi di un Letta bis? Non lo so in questi termini. So che c'è un'area di insofferenza rispetto alla prospettiva di interrompere l'azione di governo e ancor più la legislatura, ma questo mi sembra anche normale, direi, e non è una cosa che a mio giudizio riguarda solo il PDL. E quindi riguarderebbe anche il PD? Non riguarda tutti, riguarda i parlamentari. Diversi parlamentari che non hanno evidentemente... non sono convinti di una rottura così traumatica di un percorso che è appena all'inizio. Va bene, questa è la risposta che volevamo sentire, insomma, anche se adesso i senatori sono in vacanza, non è che si vedono tutti i giorni, però Naccarato, sentito. Grazie onorevole. Grazie a lei, buona grazie serata. A lei. Buon lavoro, buon buona lavoro. Serata. Onorevole Naccarato, che è un personaggio, perché ha sentito i riferimenti che faceva, cioè, ci ha detto sostanzialmente che c'è un'area nel PDL, secondo lui almeno, e lui, anche se non è del PDL, è un fiancheggiatore sicuramente, che non prenderebbe alla lettera quello che dice la Santanchè, andare alle urne, cadere il governo Letta, eccetera, ma che continuerebbe a sostenere questa ipotesi. 800 24 00 24, chi abbiamo? Qualche ascoltatore? Roberto della provincia di Roma, buonasera. Pronto, salve. Eccoci qua. Buonasera. Bypassiamo tutte le varie... complimenti, andiamo subito al suono. Va benissimo, okay. Grazie. Grazie comunque. Li è prendiamo. Un rimbombo incredibile, ma io continuo. Sì. Ok, allora, semplicemente vorrei porre una domanda più che fare osservazioni o critiche. Sì? E mi chiedo, un addetto ai lavori, e voi due penso che mi potete sicuramente, anzi, aiutare, è una domanda che... penso che interessi anche agli altri la faccia Roberto, sì. Spettatori. Allora, il perché, il motivo secondo voi, non guidatemi facilmente, però Berlusconi non rinunci a la carica politica ufficiale, e quindi perché non si dimette, mantenendo comunque, nessuno glielo toglie per legge, il primato e la possibilità di dare informazioni. Va bene, grazie Roberto, grazie. Si sente male. Lei chiede perché non fa politica anche da fuori dal Parlamento. Questa è una domanda che va rivolta a tutti i sostenitori del fatto che invece Berlusconi deve rimanere senatore. C'è Letta in diretta, credo, in Consiglio dei Ministri. Possiamo sentirlo? Monica, un problema molto delicato. Sentiamo proprio le parole del Presidente del Consiglio. Non è in diretta, naturalmente, però ecco, c'era un passaggio. Sentiamolo. Abbiamo deciso di tipizzare e di ridurre le forme di lavoro flessibile. Abbiamo messo alcune barriere per evitare che nel nostro paese si ripetano quelle modalità di scorciatoie per avere l'assunzione nella pubblica amministrazione senza concorso, che in passato purtroppo sono state fin troppo presenti. Penso all'utilizzo delle società partecipate e altri perimetri paralleli, diciamo così. Va bene, allora, questa è la Letta, sentiamo adesso i titoli del TG1. Il Consiglio dei Ministri approva il piano sui precari della pubblica amministrazione. IMU Alfano, c'è da lavorare, ma possiamo farcela. Berlusconi stoppa dichiarazioni che minano coesione nel partito. Epifani, su decadenza ex premier, basta ricatti, voteremo sì. Borsa di Milano in calo del 2% per l'incertezza politica, Mediaset perde il 6%, risale lo spread. Siria, spari sugli ispettori delle Nazioni Unite, Stati Uniti e Russia divisi sull'intervento. Bonino, impensabile senza accordo all'ONU. Gli afroamericani, il sogno di Martin Luther King, 50 anni dopo la marcia di Washington, la storia di chi è riuscita a realizzarlo. Grosseto, trasfusione sbagliata uccide anziano con la polmonite, e a Orbetello si indaga sulla morte di una 17enne. Via le prostitute dalle strade, un referendum per riaprire le case chiuse, la raccolta firme è partita quest'estate da parte dei sindaci di tanti piccoli comuni, riaccende il dibattito a 55 anni dalla legge Merlin. Allora, andiamo con gli ascoltatori. Vincenzo che ci chiama da Caltanissetta, buonasera. Sì, buonasera. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io dico, a prescindere che ormai credo che gran parte degli italiani sono stanchi da un mese a questa parte a sentire ogni giorno il caso Berlusconi. Scusate, sono un po' emozionato. Ci mancherebbe. Perché secondo me abbiamo ben altri problemi da risolvere, ai disoccupati, agli esodati, al lavoro che manca, eccetera, eccetera. Ma ho telefonato dopo aver sentito la Gelmini, alla quale o a lei o chi per lei volevo rivolgere una banale domanda. Una legge, quale la legge Severino, votata non più di 8 mesi fa, da un Parlamento simile, una maggioranza simile a quella che c'è attualmente, proposta dal PDL e con la quale legge Severino, oltretutto, sì, Berlusconi ai tempi ha evitato di portare e candidare Dell'Utri e qualche altro come Cosentino, che già avevano dei problemi con la giustizia. E con questa legge in vigore da circa 8 mesi, sì, in pratica ben 37 in Italia, tra consiglieri comunali, provinciali e regionali, sono già stati dichiarati decaduti. 37? Io non lo sapevo questo numero qua. Dove l'ha trovato? L'ho letto in internet. Bravo. 37 sono tanti. No, ecco, scusi Marcello, c'è una cosa in effetti da dire, che questa legge che è stata votata anche dal PDL, dal PD, chi adesso dice che ci sono dubbi di costituzionalità, un parlamentare che ha votato questa legge, che adesso dice ci sono dubbi di costituzionalità, dovrebbe farsi però anche un esame di coscienza del perché vota una legge che dopo 6 mesi si scopre che non è costituzionale, perché allora abbiamo un Parlamento che ci sta a fare? Questo è un dubbio legittimo, cioè, perché altrimenti non ha senso proprio quello che stanno a fare i parlamentari. Fanno delle leggi che poi, dopo pochi mesi, ci si domanda, sarà costituzionale? Ma se l'avete appena votata, che senso ha tutto questo? Questo è un argomento più che legittimo. Marcello, voleva continuare? Sì. Pronto? Eccolo. Sì, sì, io volevo sì, semplicemente chiudere rubando 30 Vincenzo secondi. Vincenzo, sbagliato. Sì. Volevo appunto capire, siccome per questi 37, e parliamo anche di personaggi importanti, perché parliamo anche di consiglieri regionali, sì, praticamente nessuno ha mai posto il problema della costituzionalità. Fermo restando, però nessuno era un parlamentare, Vincenzo, grazie per questo intervento. Comunque, perché questa è però una differenza non da poco, perché il parlamentare, sappiamo, gode di uno status diverso. Su ogni cosa che riguarda il parlamentare si deve esprimere la Camera o il Senato, e invece sui consiglieri regionali non è così. Comunque, grazie, andiamo proprio a Marcello che ci chiama da Pescara. Buonasera. Marcello? Che mi fa male la gamba, capito? No, beh, Marcello sta parlando d'altro, con altri, perché evidentemente è in attesa già da un po' e sta... Marcello è in attesa anche con alcune altre con radio, probabilmente di allora, yoga, dove sì, fanno sì, yoga, lui sta mettendo male la gamba. Parliamo con Armida, che ci chiama da Firenze. Buonasera. Sì, buonasera, vi chiamo dalla bella Firenze. Buonasera. Allora, buonasera, prima di tutto mi era venuta un'idea, perché il signore non ha portato il cinghiale dalle mucche dal latte? Forse magari avevano un orgasmo un pochino più felice, no? Ce lo siamo chiesti anche noi. Le vacche da latte del signore, sta dicendo, giusto? Sì, le vacche da latte, finalmente qualcosa di nuovo. Per me dai, così, particolarmente... ma non ha chiamato per questo, giusto? Di... No, questo sì, è venuto fuori mentre aspettavo un sentimo di questo è in omaggio, diciamo. Io ho chiamato per un'altra cosa, sì, perché veramente io li invidio quelli del PDL, perché contro tutto e contro tutti vanno avanti, proprio sa come i tori, vroom. Io dico, noi abbiamo un grande, abbiamo Matteo Renzi, che viene osteggiato da tutti, è uno che parla chiaro, poi proviamolo, Firenze è migliorata da quando c'è lui, sicché voglio dire, a un certo punto ce l'ha tutti contro, in un covo di vipere, invece qui Sant'Anche, Gelmini, tutti quanti, ma parlano di Berlusconi come Dio in terra. Io dico, se questo uomo per una cosa o per un'altra si scoccia e smette, non hanno più nessuno in quel partito? Questa è un'altra cosa che è stata detta, naturalmente, perché se il leader ha un inciampo giudiziario uno può cercarsi un altro leader, ma qua non è così per il PDL, perché l'unico leader possibile è Silvio Berlusconi, è quello che prende più voti del resto, e sono 20 anni che è così. Grazie Armida, buona serata. Andiamo a Nicola che ci chiama da Vicenza. Buonasera. Io volevo portare la mia esperienza da giovane imprenditore, ho 30 anni, a gennaio ho iniziato una nuova attività e ho assunto, anche se con una collaborazione, 500 incaricati alla vendita in tutta Italia. Là, e, complimenti. Sì, cioè lei grazie, ha assunto 500 persone? Sì, è un porta a porta, quindi è un contratto specifico per gli incaricati a porta, comunque sì, da gennaio ho 500 incaricati. Ma di cosa si occupano? Cosa vendi? È praticamente una vendita di prodotti, cibo e accessori per animali domestici. È la prima ditta che lo fa e quindi ha iniziato particolarmente. Anche per i cinghiali stressati? Oggi è tutta No, per i cinghiali stressati no. Se non ha il tavolo... Non c'è niente. Un altro genere di animale. Vabbè, ma... Beh, è una bella notizia, quindi. Sì. Ci sta dicendo che la sua attività va benissimo. Forse dobbiamo occuparci tutti di porta a porta e animali, che detta così sembra una brutta trasmissione televisiva, ma insomma. Nicola, cosa voleva dire però? È sparito? È stato mangiato da un animale domestico. Da un cinghiale, esatto. Tanto per rimanere in tema. Marcello da Pescara, non so se è quello di prima, se nel frattempo... Marcello? Sì. Buonasera, tocca a lei. Buonasera. Buonasera. Prego. Dunque, io telefono da Pescara. Allora, mi rilego a quanto diceva la Gelmini. È un governo Letta... Alfano. PDL e PD di larghe intese. La parola larghe intese significa che quando hanno fatto il governo, quando si sono presi l'impegno di fare il governo, hanno già delle intese. Come si fa adesso... Il PD o il PDL, come fa l'uno a dir male dell'altro? Stanno governando insieme, ci scoraggiano. Quindi è chiaro che devono prendere le intese e devono anche essere benevoli tra di loro. Altrimenti noi poveri cittadini paghiamo le tasse, li votiamo, tutto quanto, quindi siamo scoraggiati. Ma essere benevoli che cosa vuol dire? Chiudere un occhio per una sentenza su Berlusconi? Anche perché conosciamo... È un po' oltre la benevolenza, però. Berlusconi è un grande contribuente. Ho capito, ma dica la legge... Dica lei chi degli altri onorevoli hanno dato a noi, allo ma questo Stato, però non c'entra niente. Hanno tanti operai messi da Berlusconi come... cioè voglio dire, non ma non è che se uno, ma non è che se uno ha contribuito... È un cittadino onorevole, per quanto... Ma quello tutti in Parlamento sono dei cittadini onorevoli. Questo è quello che penso io, indipendentemente, perché possono non averlo votato, Ma certo. Quindi... Però non è sufficiente essere... Come si permette a dire tassativamente... Voglio che tu non fai il senatore. Non è come si permette, che c'è una legge. Ma non è un commento, non è che Letta lo fa come commento personale. Scusi, non è come si permette, è come ci si permette e che non si può dire il contrario in questo momento, a meno che non ci sia un intervento del capo dello Stato. Già partono loro, già partono per far cadere il governo, il PD, perché Epifani, così tanti altri, Franceschini e così via. Continuamente dicono noi questa uscire alla decadenza. Questa è la posizione, grazie Marcello, questa è la posizione del... Sì, grazie Marcello, buona serata. Questa è la posizione di Epifani, diversa la posizione del PDL. Lei auspica che queste larghe intese vadano avanti con benevolenza, ma non è mi sembra momento di benevolenza questo qua, è momento di scontro, è momento di prendere delle decisioni e poi ognuno di assumersi le sue responsabilità. Quel discorso che fa lei non sta molto in piedi. Ulisse da Macerata, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora io vi ruberò un minuto solo per dirvi due cose velocissime. La prima è che nonostante questo periodaccio di crisi che tutti piangono, lavoro, non c'è lavoro, eccetera, mia moglie per l'ennesima volta ha trovato lavoro. Vi prometto che appunto chiamo dalle Marche, come avete detto, quindi non di certo chiamo dal Nord-Est, la regione nota per le opportunità di lavoro, eccetera. Le Marche. Complimenti, facciamo i complimenti a sua moglie. Ma per l'ennesima volta in che senso? Nel senso che cambia lavoro ogni settimana? Nel senso che lei, da quando, negli ultimi 4 anni che è venuta a vivere, che ci siamo appunto trasferiti nelle Marche, ha cambiato diversi lavori, purtroppo tutti a contratto a tempo determinato, però comunque ha sempre trovato lavoro accontentandosi, tra virgolette, anche di fare non la professione precedente. Cambiando cioè, anche, rimettendosi... Lei faceva la caporeparto, scusate, un ritorno maledetto. Lei faceva la caporeparto in un centro commerciale, in un ipermercato, adesso fa la commessa, è venuta qui 4 anni fa, si è accontentata, tra virgolette, non che non me ne voglia nessuno, ad andare a vendere a 44 anni. Non c'è niente di male, anzi, è molto innamorata probabilmente di lei. L'altra cosa che voleva dire, Ulisse? L'altra cosa che volevo dire è, sì, voi non siete, tra virgolette, i conduttori, titolari di questa trasmissione, io apprezzo il vostro modo di fare, sì, perché per come gestite la vostra... clientela, perché noi siamo ascoltatori, ma acquistando, tra virgolette, ascoltando il vostro prodotto, siamo di fatto dei clienti. Ah, no, pensavo che clientela fosse, gli era scappata, invece l'aveva pensata Ulisse, la clientela. Grazie per i complimenti. Grazie Ulisse. Sì. No, scusi un attimo. Sì, voleva finire. Ci state rispettando? Sì. Non avete mai usato la parola, beh, che vuole? Chiamiamo un'ambulanza, questo lo mandiamo dei matti. Vabbè, ma l'ambulanza è una cosa, l'ambulanza no. È una cosa per ridere. Ogni tanto però qualche ascoltatore l'ambulanza la chiama, Ulisse. Sì, però è francamente esagerato il loro modo di fare. Adesso abbiate pazienza, siamo bene, alla fine che sono isolette. Grazie, ma non parliamo degli assenti. No, comunque la ringraziamo moltissimo. Non ho mai avuto la possibilità di dirglielo in faccia e tanto sapete bene che da quando gli si dice qualcosa che non gli piace, pigliati Italia. Voi questa sera avete Non è vero, non è vero, può chiamare quando gli pare. Grazie Ulisse, basta, se no diventa noioso. Buona serata. And now, the good news! È italiano il primo sito porno per beneficenza. Cam4Org è nato grazie alle donazioni della rete. A ogni video è associata una causa benefica che riceve tutti i ricavi provenienti da pubblicità, banner e donazioni. Sesso e cuore, per una volta insieme! Allora, abbiamo sempre da Firenze Marco che ci chiama. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Buonasera. Tocca a lei. Sì, volevo dire che secondo me questa contrapposizione tra berlusconismo e anti-berlusconismo sta rovinando l'Italia. Cioè, per un periodo, 20 anni, abbiamo distolto l'attenzione su i problemi del paese, la competitività, il debito pubblico. Cioè, e ora assistiamo ad un ricatto politico del centrodestra che ci rischia di far perdere il treno della ripresa che sembra quasi che stia per arrivare. Questa è la tesi di Letta, tra l'altro, sì. E io capisco che non possiamo chiedere al PD di allenarsi definitivamente la base, debilitando politicamente Berlusconi. Però secondo me si potevano trovare anche dei modi per salvare capra e cavoli, insomma, dove la capra è la faccia del PD e i cavoli sono gli interessi degli italiani. Cioè lei spera che si possa salvare Berlusconi e anche il governo Letta? Sì, esatto. Secondo me una soluzione poteva essere proporre al centrodestra di pagare un prezzo politico concreto, proprio con una cosa a luce del sole, ad esempio su alcuni temi specifici. Ma bisogna vedere salvare Berlusconi in che modo, perché una strada l'ha indicata secondo me Napolitano, ha detto a Berlusconi chiedimi la grazia e quindi in sostanza sottomettiti però al giudizio della magistratura, io ti darò la grazia, quindi ti toglierò il fardello della pena ridandoti questa agibilità. E questo poi potrebbe consentire anche al governo Letta di andare avanti, però a quel che abbiamo sentito non è ancora chiaro se Berlusconi chiederà la grazia facendo questo, che sembra al momento l'unico percorso di pacificazione possibile, il resto è scontro. Grazie Marco. Umberto da Treviso, buonasera. Buonasera. Prego. Spero che mi sentiate bene perché non sono col viva voce. Ma io volevo fare un intervento anche abbastanza veloce per quanto mi riguarda sull'IMU, che lo ritengo proprio un problema di lana caprina, o meglio, è un problema che il centrodestra, il PDL, ha tirato fuori a livello di sicuramente di attrazione per quanto riguardava la campagna elettorale precedente e dover tenere fede a un patto fatto con gli italiani che la storia ci racconta raramente è stato tenuto, come è stata tenuta fede a questi patti che Berlusconi a più riprese ha fatto, ma guardando con cifre alla mano, io vorrei portare il mio caso specifico. Io ho una casa a Treviso, è una casa, non è un appartamento, non recentissima, a 20 anni, sulla quale io e mia moglie, siamo al 50%, paghiamo di IMU la folle cifra di 219 euro all'anno. Cioè folle un po', sarà ironico. Cioè stai dicendo che l'IMU non le sembra il problema, questo, giusto? Ma direi che abbiamo dei problemi più grossi, è ovvio che deve essere rimodulata, ci saranno degli eccessi. Io sono d'accordo con lei, grazie caro ascoltatore, perché insomma, poi l'abbiamo sentito dire anche da diversi imprenditori che la priorità non è l'IMU, per loro almeno, ma se parliamo di lavoro, le tasse sul lavoro che devono diminuire in modo da poter creare nuovi assunti. A proposito di nuovi assunti, adesso vi raccontiamo una bella storia, è il momento a quest'ora di congedarci con una bella iniziativa, questa volta viene dalla Toscana e riguarda il lavoro in agricoltura in particolare. Via! Potrai correre il sole, scoprire il mondo. La regione Toscana ha creato, adesso vedremo a che punto sono, una banca della terra, terre pubbliche abbandonate, censite, individuate, messe a disposizione di agricoltori, di chi presenta un progetto, per essere affittate appunto a canoni agevolati, quindi incentivare l'occupazione e anche il recupero di queste terre. E noi ritroviamo, l'abbiamo convocato di nuovo, l'assessore all'agricoltura della Regione Toscana, Gianni Salvadori, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Ho detto chissà a che punto saremo, perché ci eravamo sentiti, si può fare nella edizione, diciamo, del weekend qualche mese fa, quando avevate lanciato questa iniziativa. A che punto siete? Passiamo a questo punto, ormai la struttura organizzativa è fatta, sì? Quindi abbiamo 6 persone a lavorarci sopra a questa iniziativa. Abbiamo avviato in maniera sperimentale i primi censimenti in 3 comuni della Toscana per individuare le terre, come dire, dismesse, abbandonate in questi comuni. Sì. In altri abbiamo già avviato, penso a Cortona, penso in realtà in pezzi del comune di Firenze, il rapporto con istituti tecnici, con realtà della scuola, per cominciare a avere a disposizione i loro terreni, e con alcuni gruppi di giovani sono già stati fatti i primi incontri per spiegarci meglio tra noi e loro le modalità dell'intervento. Senta, assessore, scusi, terreni solo pubblici o anche privati? No, per il momento stiamo ragionando soltanto di suoli pubblici, ma il censimento che stiamo facendo in questi comuni riguarderà anche i suoli privati. Cioè, per il momento state facendo il censimento o state già distribuendo queste terre? No, ancora non siamo alla fase di distribuzione, cioè arriveremo, mi auguro, entro l'anno a distribuire le prime terreni. Ora siamo nella fase in cui vogliamo capire in questi comuni le modalità per arrivare a censire, perché non tutti i terreni sono di per sé abbandonati, per di più quelli dei privati, su cui chiaramente, come lei può, come i nostri ascoltatori possono ben intuire, siamo su un terreno molto viscido, che è quello di evitare i rischi che uno possa pensare che c'è l'esproprio. Beh, no, certo, ma in quel caso ci sarà, non so, una proposta da parte vostra. Noi proporremo ai proprietari, una volta individuati questi terreni, gli proporremo di darceli in affitto. Cioè, guarda, piuttosto che tenerlo abbandonato, te lo prendo in affitto io, quindi l'eventuale proprietario potrebbe avere anche un interesse, un guadagno. Invece voi avete dall'altra parte raccolto le adesioni, i progetti per valorizzare questi terreni e farete l'incontro. A proposito di questi progetti, di chi vuole aderire, come è già possibile entrare in contatto con la Banca della Terra? Per... Noi abbiamo già il sito ufficiale. Sì? Quindi abbiamo la possibilità di avere contatti, ma già abbiamo telefonato e fatto già qualche incontro, un paio di incontri con alcuni giovani che hanno voglia di fare l'imprenditore agricolo e mettere su attività. Ecco, quindi adesso come si fa ad aderire? Si deve fare una domanda? Bisognerà, ora noi siamo di nuovo su una fase chiaramente molto sperimentale, quindi stiamo tentando, per esempio, una prima idea è partire sulla zona di Cortona, anche lì mettere insieme appunto la realtà di chi mette a disposizione, c'è un territorio demaniale importantissimo e bello, con chi ha dichiarato la volontà di farlo. Qui ci sono problematiche anche giuridiche molto rilevanti, ci stiamo lavorando in maniera importante, anche se ci sono pareri molto contraddittori fra di loro, fra chi, Corte dei Conti, avvocatura, insomma la cosa è complessa, per costruire dei contratti e di garanzie almeno ventennali per chi va a prendere in affitto, perché è chiaro, bisogna poter fare degli investimenti, quindi ci vuole un orizzonte temporale, perché in agricoltura minimo sono investimenti intorno ai 20 anni, e per pensare a un ritorno, a un ammortamento idoneo, adeguato. Senta, quando scade la vostra giunta? Perché non vorrei che, visti i tempi, poi si arriva in fondo. È stato bello, arrivederci e grazie. Se non ci sono problemi, scade a aprile 2015. Se no tocca rivotarla per far rimanere lei sindaco? No, sindaco no. Assessore. No, assessore, chiedo scusa. No, grazie. No, una promozione per il sindaco. No, la cosa che credo vada comunque avanti, perché questo sta incontrando tanti interessi. Le cito un esempio su tutte. In luglio eravamo a colloquiare insieme al vescovo di Livorno, che aveva a territori, a terreni, a un'idea, e alla fine è emersa questo l'utilizzo di questo strumento e stiamo mettendo insieme la diocesi di Livorno con l'ente Terre per vedere di costruire queste opportunità. Il vescovo ha l'idea. Noi saremo contentissimi di festeggiare insieme a voi la prima assegnazione di una terra al più presto, assessore, mi raccomando. C'è tempo fino a venerdì, faccia presto. Dateci dentro, buon lavoro, complimenti per l'iniziativa e speriamo che ce la facciate presto. Complimenti. Grazie, grazie, buona serata. Ci fermiamo qua. Abbiamo chiuso anche per questa sera. Stupendo. Che dire? Appuntamento ottimo. A domani. Ringraziamento a Riccardo Poli, Laura Marchesi in redazione, Andrea Piana che ci aiuta a scrivere il programma, Valeria Bernardi in regia. Ci sentiamo domani. Un saluto, una buona serata anche a chi ci ascolta in podcast. A domani. Sì!